avec son corps. Steve a mis au point différents réservoirs. Ci sono novità anche su Heute Journal mit Klaus-Peter Siebler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Buongiorno, bentornati alla finestra sul cortile. Altro che fine della storia, per riprendere il titolo di un famoso saggio di Francis Fukuyama. Dopo la caduta del muro di Berlino, la storia si è rimessa a correre e ci riserva continui colpi di scena, ribaltamenti di prospettiva continui, e ci costringe a rivedere stereotipi e luoghi comuni. Per esempio, il risorgere dei fondamentalismi religiosi è stato visto come una reazione alla modernità, come un ostacolo sulla strada della occidentalizzazione, della democratizzazione dei paesi islamici. Oggi invece appare sempre più chiaro che i due fenomeni vanno di pari passo, sono intrecciati tra loro. Il fanatismo religioso è un sottoprodotto della modernità. E la crisi finanziaria di questi giorni, che distrugge i fondamenti, i miti del neoliberismo, potrebbe essere un'occasione di rinascimento culturale. Possibile? Tutto è possibile nel mondo bizzarro e capriccioso in cui ci tocca vivere. Ma intanto sentiamo che cosa prevede il sommario della nostra puntata. Francia. I fondamentalisti religiosi sono figli della modernità. Nel suo ultimo libro, Oliver Roy spiega perché. Inghilterra. Le borse scendono, gli incassi al botteghino salgono. Il cinema, il teatro e il mondo dell'arte sono favoriti dalla crisi finanziaria? Svizzera. L'opera d'arte sono io. Un giovane mette in mostra la sua schiena tatuata nelle gallerie di tutto il mondo. Stati Uniti. Darwin sotto accusa in Texas. Stavolta è la sua teoria evoluzionista a rischiare l'estinzione nei libri scolastici americani. Germania. Nella città di Lutero fervono i preparativi per il cinquecentenario dell'affissione delle 95 tesi, ma a mancare all'appello sono proprio i fedeli. Russia. Un libro racconta la storia delle celebri uova di Fabergé, pezzi da collezione che rispecchiano la vita degli zar. Le notizie della crisi finanziaria, dei mercati borsistici, tengono con il fiato sospeso tutti noi, ma potrebbero viceversa essere delle buone notizie per l'industria, per lo show business, per l'industria dell'intrattenimento, in particolare per l'industria cinematografica. Così almeno sostiene un articolo di Kevin Maher sul Times, che è intitolato How Will the Recession Affect Film?, in cui il giornalista del Times intervista alcuni protagonisti del cinema britannico e americano. Tra l'altro si fa una considerazione iniziale che dopo la crisi del 29, nell'anno successivo, si ebbe addirittura in America un incremento del 58% degli spettatori nelle sale cinematografiche. Non solo, ma dopo questa grande depressione, si ebbero fenomeni importanti del mondo della storia del cinema come Charlie Chaplin, o della letteratura come Steinbeck, o della musica come Woody Guthrie. Cioè, praticamente potrebbe addirittura verificarsi il paradosso che mentre così tutti quanti devono tirare di più la cinghia, in realtà l'industria cinematografica finisce per prosperare, per produrre nuovi talenti. Per esempio David Koss, presidente della Universal Pictures International, sostiene che l'industria britannica, che ha grandi talenti, non dovrebbe avere risentire di questa recessione, mentre invece ecco quello che potrebbe essere un elemento di preoccupazione è il fatto che si aprano meno sale cinematografiche in Russia e nell'Europa dell'Est, che sono uno dei mercati più promettenti per l'industria cinematografica. E Tessa Ross, che è la responsabile di Channel 4 per i film e il teatro, e sostiene che addirittura ci potrebbe essere una fioritura di film low budget.

nostro cinema è bene che abbia delle radici molto nostre, però quando si lavora su dei progetti internazionali con registi non italiani o su dei progetti che poi hanno un'ambientazione non legata al nostro paese, farlo dall'Italia è più complicato. L'Australia è altrettanto periferica, c'è il vantaggio della lingua inglese, ma non è una situazione centrale nell'industria cinema. Il cuore è bene nel male Los Angeles, e in Europa Parigi e Londra sono le città che hanno questa centralità, ecco. Però lavorare su quei progetti dall'Italia è molto complicato. Ecco, Gomorra sarà candidato all'Oscar. E ancora una volta l'Italia, diciamo, ha come ambasciatore un film certamente importante e bello, ma che dà del nostro paese un'immagine molto negativa. Lei come la vede? La vedo che innanzitutto Gomorra è al momento uno dei 67 film, quindi abbiamo ancora un bel cammino da fare prima di avere una candidatura dentro i 5. Per quello che riguarda l'immagine dell'Italia non sono d'accordo, penso che il film abbia dei meriti e abbia un gran valore, come anche il romanzo di Saviano, certo. Penso che ogni tentativo di cambiare le cose passa attraverso la conoscenza di queste cose stesse e continuare a raccontare a noi stessi e agli altri il nostro come il bel paese dove tutto va bene, si suona il mandolino e si canta per le strade, non abbia più senso. Certo, bene, noi ringraziamo Domenico Procacci e gli facciamo molti auguri per il suo lavoro. Buona giornata e a presto. Grazie. E restiamo in tema di arte ed economia. Il Sunday Times ci dà notizia di un curioso acquisto sul mercato dell'arte. 200.000 euro per un'opera d'arte che non si può appendere in una galleria e non si può nemmeno immagazzinare nel caveau di una banca, per la semplice ragione che quest'opera d'arte è un signore, un certo Tim Steiner, un musicista di Zurigo, che si è fatto tatuare la schiena in un modo particolarmente ricercato da un artista, tale Vindelvoix, un artista concettuale belga. Ha dovuto sottoporsi a ben 30 ore di tatuaggio e dice, confessa Tim Steiner, ho davvero sofferto per l'arte. Speriamo che l'idea non ispiri Damien Hirst, che non decida di mettere il malcapitato in formalina. E ci spostiamo in Russia, sulle colonne del Moscow Times, si parla di un libro di Toby Faber, Fabergé's Eggs, le uova di Fabergé, sono le famose opere del grande gioielliere ottocentesco che lavorava per gli zar. Il primo di queste uova fu regalato dallo zar Alessandro III a sua moglie Maria per la Pasqua del 1885 e voleva che l'oggetto fosse particolarmente prezioso. Era completamente ricoperto di uno smalto bianco e all'interno c'era una gallina d'oro con gli occhi di rubino. La collezione delle uova di Fabergé, che poi si moltiplicarono negli anni, fu acquistata da Malcolm Forbes, il proprietario del magazine americano, e però recentemente è ritornata in patria grazie all'oligarca russo Viktor Vekselberg, che l'ha acquistato nel 2004. Certo, agli zar le uova di Fabergé non portarono molta fortuna, vista la fine che fece il loro regime. Chissà che sorprese riserveranno a Putin. La finestra sul cortile. La Sainte Ignorance, la Santa Ignoranza, è il titolo dell'ultimo libro di Olivier Roy, docente all'École des Hautes Études di Parigi, attualmente professore negli Stati Uniti, sociologo e storico e grande esperto del mondo musulmano e dell'islamismo. Questo suo nuovo libro è pubblicato dalle edizioni Seuil e proprio al tema di questo libro è dedicato un dibattito sulle pagine del Nouvel Observateur tra Olivier Roy e due giornalisti del settimanale francese, Gilles Anquetil e François Armanet. Il titolo del dibattito è Les métamorphoses de la religion, le metamorfosi della religione. E si parla tanto di ritorno del religioso, ma secondo Olivier Roy, in realtà quello che è cambiata è la visibilità del fenomeno religioso, ma soprattutto c'è stato un cambiamento delle religioni stesse, per cui quello che ritorna sulla scena sono delle religioni diverse da quelle tradizionali. È una vera e propria mutazione. Lui parla di nomadismo, di mercato delle fedi, in cui quello che prevale è una forma di individualismo, per cui la gente cerca nel fenomeno religioso un'affermazione della propria identità, e questo vale sia per l'evangelismo protestante negli Stati Uniti, sia per il mondo musulmano, e ovviamente dove il fenomeno fondamentalista ci fa più paura. Cosa dice sostanzialmente Olivier Roy? Che il fondamentalismo non è una reazione alla modernità come noi siamo abituati a pensare, bensì un fenomeno che appartiene alla modernità e alla globalizzazione, è del tutto interno a questo processo e quindi non c'è contrapposizione, ma dobbiamo fare i conti con il ritorno alla religiosità, a questo tipo di religiosità, di una pratica religiosa intensiva, che di fatto, insomma, si esprime in varie forme, a volte anche in forme violente. Per quanto riguarda in particolare il discorso del cattolicesimo, si parla anche ovviamente delle posizioni di Benedetto XVI, che non è un fondamentalista, e questo Olivier Roy lo dice in maniera chiara, ma che comunque cerca di ritornare alle tradizioni. Per il resto, quello che unisce tutti questi vari fenomeni è quello che, secondo Olivier Roy, è un divorzio tra la religione e la cultura, per cui i fondamentalisti in qualche maniera approfittano di una deculturizzazione di massa per far passare il loro messaggio. Ma intanto salutiamo il nostro ospite, il professor Franco Garelli, che abbiamo in linea da Torino. Buongiorno, professor Garelli. Buongiorno. Sociologo delle religioni, sta lavorando ad una riedizione della sua indagine sulla religiosità in Italia. Ecco, questa definizione del fondamentalismo come figlio della modernità la convince? Ma in parte mi convince, ma in parte vi vedo altri fenomeni, altri aspetti. Cioè, Olivier Roy fa queste affermazioni guardando a un lato, sì, del problema, no? Cioè guardando al lato più della religiosità, come lei accennava, cioè al lato dell'espressione dei singoli, no? Anche se poi questi danno vita a gruppi, eccetera, ma vivono la religiosità in un modo moderno, lui dice, no? È quello, sì, che nel passato si diceva anche recente. Ci sono delle produzioni religiose della modernità, allora c'è una religiosità meno formale, più intensa, più legata al carisma, all'esperienza, all'immediatezza, no? Una religiosità anche più emozionale, più attenta a una fede sensibile, e ci sono nel mondo molti segni, ecco, dell'esplosione di questo tipo di religiosità, che assume anche i caratteri per alcuni aspetti del fondamentalismo, cioè del radicalismo, ecco, no? di un'espressione fortemente radicale. Però a mio avviso c'è anche poi l'altra dimensione, che non è solo a livello soggettivo, ma a livello più di movimenti o di chiese o di gruppi o di sette. E qui io ritornerei alle immagini e alle interpretazioni di Casanova, José Casanova, no? Che diceva c'è un ritorno della religione sulla sfera pubblica, soltanto in chiave individuale, ma anche in chiave proprio collettiva, di gruppi, certo, di non c'è dubbio. No? Perché anche quella è figlia della modernità, è proprio della modernità che la religione riacquista un valore pubblico in quanto vuol partecipare a costruire il discorso attuale su molte questioni, no? Certo. Anche ecco, politiche. Ecco, parliamo del nostro mondo cristiano, in particolare dell'America, dove abbiamo assistito in questi ultimi anni ad un fenomeno religioso molto intenso, che ha anche spiegato e sostenuto la rielezione di Bush. Secondo Olivier Roy, questo fenomeno si sta esaurendo, nel senso che un certo cristianesimo, diciamo, integralista, quello degli evangelisti, che si esprime soprattutto attraverso le norme, i divieti contro i matrimoni gay, eccetera, insomma, adesso tende piuttosto a colorarsi di venature più sociali, e questo spiegherebbe, per esempio, il fatto che molti evangelisti hanno partecipato alla convention democratica. Si sta come richiudendo il religion gap, no? Che tra sì. Democratici e repubblicani. Sì, io credo che sia giusta la sua analisi e osservazione se guardiamo il breve periodo, perché come anche lui ci dice, insomma, tra le righe, oggi le questioni sociali ed economiche sembrano prevalere rispetto alle questioni più, diciamo, identitarie o più alla battaglia sui valori. Quindi c'è questo aspetto, ma bisogna anche guardare però sul medio e lungo periodo, e quindi io direi che questa battaglia di valori è un po' sullo sfondo, ecco, di tutto sì. questo dinamismo, e probabilmente ripartirà, ecco, quando magari la situazione economica non avrà più il carattere proprio dell'emergenza forte. Parliamo invece della Chiesa Cattolica. Una delle osservazioni che fa Olivier Roy è che, per esempio, i Papa Boys che riempiono le piazze in realtà poi non confluiscono in un aumento delle vocazioni, per cui non corrispondono ad un incremento delle iscrizioni ai seminari, per esempio. Beh, se mi è consentito, mi sembra un po' un'osservazione banale questa. Sì. Insomma, ci può essere, no, un'attrazione anche in campo cattolico, e questo fa emergere come certe istanze siano, appunto, attraversino tutte le religioni, anche in campo cattolico, un'attrazione dei giovani nei confronti del carisma, nei confronti dei momenti eccezionali del vivere la fede, in una fede universalistica come quella, appunto, espressa, simboleggiata dalle giornate mondiali della gioventù. Ma questo non significa che i giovani cattolici più attivi e convinti, che partecipano con entusiasmo, ecco, a questi momenti emozionali, abbiano poi l'intenzione, no, di diventare personale religioso o sentono la vocazione. Ecco, oggi c'è molto questa diversità, no, di linee, di orientamento, di percorsi, di binari, di vocazioni. Ciò non significa che non ci sia una identificazione forte da parte di questi, no, con il Papa, non so, con l'istituzione, certo. Se questa presenta un volto umano, insomma, e anche un pensiero, come nel caso di Benedetto XVI, un pensiero attento, riflessivo, eccetera. Ma non ritornano, insomma, gli schemi del passato. Mi sembra che qui Olivier Roy riproduca gli schemi del passato. I giovani oggi possono sentire l'ideale della vocazione soltanto dentro delle scelte vocazionali molto significative. Non so, dove ci sono dei leader, certo. evidenti, no? Dove c'è una possibilità di trovare una chiave esperienziale forte. Mancando questo, c'è l'attenzione a una serie di proposte che l'istituzione può anche fare, se queste rientrano, no, nelle proprie, sono vicine alle proprie propensioni, ma non è detto che ripercorrono poi i modelli tradizionali, non so, di adesione o di inserimento anche dentro il quadro istituzionale. Del resto, se uno va nelle chiese francesi, per esempio, trova molto spesso davanti all'altare un sacerdote di colore, cioè il serbatoio delle vocazioni si è spostato nei paesi del terzo mondo, insomma, in particolare nell'Africa. Insomma. Esatto, ma noi poi qui abbiamo anche alcuni casi, no, interessanti. Ci sono i monasteri molto vuoti e i monasteri molto pieni. No? Ecco, qui dipende dal carisma, dipende, no, dalla parte carismatica, dipende dalle condizioni della comunità. Grazie, professor Garelli, buona giornata e a presto. Arrivederci. Arrivederci. E a proposito di religioni, ci spostiamo in Germania, culla della Chiesa Luterana. Gli abitanti di Wittenberg, in Sassonia-Anhalt, si preparano a un lungo periodo di celebrazioni, inaugurando quest'anno, per l'appunto, il decennio luterano, che culminerà nel 2017, ovvero 500 anni dopo che Lutero affisse le sue famose 95 tesi sul portale della chiesa cittadina. Data l'importanza dell'evento, la comunità protestante tedesca si propone nei prossimi anni di trasformare questo comune in un celebre luogo di pellegrinaggio evangelico, una specie di Roma del protestantesimo, ma se nella capitale del Papa anche gli atei sono devoti, a Wittenberg durante la secolarizzazione forzata sotto la Repubblica tedesca dell'Est, la fede degli abitanti, che oggi vivono sfruttando economicamente in ogni modo l'immagine di Lutero, si è affievolita al punto da quasi scomparire del tutto. Non sarà allora forse meglio che prima di festeggiare la riforma si incomincino a riformare i festeggianti? E voliamo in America, e per la precisione in Texas, dove, come ci riferisce la Associated Baptist Press, tre dei sei componenti di una commissione che è stata nominata per rivedere gli curricula scolastici per le lezioni di scienza nelle scuole pubbliche del Texas si sono pronunciati contro l'evoluzionismo, e questa pronuncia, che si tradurrà ovviamente in una correzione anche dei libri di testo per introdurre il creazionismo e l'intelligent design come materia di insegnamento, avrà un impatto ben oltre i 4 e 6 milioni di studenti dello stato del Texas, perché il Texas è uno dei maggiori mercati degli Stati Uniti per i testi scolastici, per cui gli editori probabilmente creeranno nuovi libri di testo e li useranno anche in altri stati, e questo è il timore che hanno soprattutto i sostenitori del darwinismo. Il Texas ha già danneggiato abbastanza l'America regalandogli la dinastia dei Bush, manca solo che ora esporti pure l'ignoranza nel resto degli Stati Uniti. E per oggi è tutto, ringrazio Laura Marchesi in redazione, Fabio Cantadori in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi saluta e vi augura buon weekend, a risentirci settimana prossima, stessa ora.